Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Studiare violoncello alla sua età, senza avere alle spalle una preparazione teorica, era una vera sfida. Un'impresa alla pari di quell'Atlantico, attraversato in barca a vela qualche anno prima. Mi chiamo Giulio, sono di Milano, ho 59 anni e ho una marea di hobby. Mentre davanti ai nostri occhi continua a sfilare un numero incredibile di uomini agghindati in tutti i modi, noi alle 16:07 minuti in punto, esattamente alla fine di Gigi Telesforo e il suo soundcheck, riprendiamo la seconda puntata in diretta da Pitti Uomo a Firenze di Voi Siete Qui. Buongiorno a tutti, oggi c'è un po' di nuvole sopra Firenze che non la rende particolarmente intrigante, per quanto non lo sia già di suo intrigante questa città, come è sempre. 349-238-6666 il numero di SMS, ma soprattutto oggi vi chiediamo di fare un gioco insieme a noi. Visto che voi non siete qui, ma siete a casa vostra o siete in ufficio o siete in giro, ci piace provare a fare una sorta di sfilata dello style degli ascoltatori di Voi Siete Qui. Lo style qua, e dico style non a caso, essendo in questo luogo, è abbastanza chiaro. Grandi barbe, come diciamo ieri, pantaloni sopra la caviglia, scacchi, vanno molto gli scacchi, scarpe colorate, scarpe con tante fibbie, montature colorate. Invece noi vogliamo sapere che cosa indossate oggi. 349-238-6666, una giacca, un paio di pantaloni, che scarpe avete, come avete i capelli, come avete la barba, se avete la barba, che occhiali avete. Se volete mandare un messaggio, 349-238-6666. Se volete invece inviare una foto, abbiamo un profilo Facebook e un profilo Twitter. Facebook è Voi Siete Qui Radio 24, Twitter invece è semplicemente Voi Siete Qui R24. E prima di cominciare a raccontare, come facciamo al solito, la storia di Giulio oggi, che è una storia che parla d'altro, non parla d'abbigliamento, però un po' di tempo lo dedichiamo all'abbigliamento visto che ci siamo immersi da ieri. Noi abbiamo caricato una foto, devo dire che è molto Pitti Uomo, è molto moda la foto che abbiamo caricato sul profilo Facebook, in cui ci siamo io, Tiziano, Paolino e Margherita. Sembriamo più dei carcerati, devo dire, dai colori e dallo sfondo. E già alcuni ascoltatori hanno cominciato a postare le loro foto. Ad esempio Tommaso che si fa un autoscatto e ha su un maglione, ti giuro Tommaso, a rombi inguardabile. Forse quando avevamo 16 anni la nostra mamma ci obbligava a mettere questo maglione e qualcuno di noi si opponeva. Alvise, ve lo ricordate, perché è l'autore della storia del dello stambecco albino. Alvise ha i suoi bei capelli rasati, una bella barba come giustamente va in quest'ultimo periodo, quest'ultimo mica tanto, e soprattutto ha un maglione rosso di lana, credo fatto da una nonna, probabilmente abbastanza improbabile. E poi ancora Natalia invece si fa un autoscatto in una casa che sembra un camper un po', e Natalia su un maglione, ci abbiamo speso mezz'ora a capire, Piedpool bianco e nero. Ma soprattutto direttamente dal Nanga Parbat, Emilio Previtali, che è un altro ascoltatore affezionato del programma che molti di voi ricorderanno, altrimenti andate a vedervelo, ci manda una foto da una tenda evidentemente nel campo base del Nanga Parbat, in cui ci sono lui, Simone Moro e l'altro alpinista di cui mi sfugge il nome al momento, che tenteranno l'ascesa in invernale, prima ascesa in invernale al Nanga Parbat, e indossano, direi, giacconi, giacche a vento, giaccone antivento e delle belle cuffie in testa. 349-238-6666. Come siete vestiti oggi per partecipare al grande catalogo di Voi Siete Qui in diretta a PT Uomo? Facciamo però un passo indietro ed entriamo nel cuore della puntata di oggi. Oggi raccontiamo la storia di Giulio, che sostanzialmente impara a suonare uno strumento molto complicato, oltre 50 anni. Quindi oggi dedichiamo la puntata a questo, a raccontare quali sono le cose che avete cominciato a fare da adulti, ma da adulti seri. Tipo Mariella scrive sul profilo Facebook: studio naturopatia, sono al secondo anno e ho 50 anni, sono felicissima, ci sono tante persone della mia età, certi percorsi di vita non si possono fare a 20 anni, dice, si impara sempre alla fine dei nostri giorni. Mariella, c'hai 50 anni. E poi Carlo: io ho iniziato a correre dopo i 40 anni, non pensavo fosse così bello, utile, foriero di pensieri positivi. Nel 2013 ho corso 365 giorni su 365 alle 5:30 di mattina per completare 100 maratone, 4.219,5 km. C'è della patologia ogni tanto, anche nell'incominciare tardi. 349-238-6666. Ce n'era un altro di messaggio. Salve, ho 52 anni, Cristina Martinez. Ho 52 anni e sto imparando la lingua italiana da 4 anni, mi piace tantissimo questa bella lingua. Vado a lezione 2 volte alla settimana a una scuola di lingue dove sono tutti adulti e ci divertiamo molto. Se state imparando qualcosa da adulti, 349-238-6666, ma soprattutto, come siete vestiti oggi? Mandateci una foto sul profilo Facebook del programma. Voi siete qui Radio 24 oppure semplicemente descrivetelo al 349-238-6666. La storia di Giulio parla d'altro, parla di uno che sostanzialmente anche da anziano non c'ha voglia di annoiarsi. Lui è Giulio. L'aveva sempre sognato e quel giorno finalmente era giunto. Era come un bambino che aspetta il gelato più buono del mondo e il tempo non passava mai. Era nervoso, irascibile, ansioso, oltre quello che ci si sarebbe potuto aspettare da un maturo, equilibrato e tranquillo più che cinquantenne padre di famiglia. Non faceva che passeggiare avanti e indietro per la casa, controllando l'orologio ogni minuto e guardando la televisione distrattamente. «Che ore sono?» disse la moglie. «Ma sì, dai, arriverà», disse lei. «Di solito i pacchi li consegnano verso mezzogiorno, non prima». Finalmente, dopo un tempo apparentemente eterno, fatto di apprensione e nervosismo, il citofono lo fece balzare dal divano. Fece quasi una corsa fino all'apparecchio, quello posto vicino alla porta d'ingresso. «Sì? Sono il fattorino. Devo consegnare un pacco». «Le mie passioni sono la musica, scrivere, andare in giro in barca a vela e molte altre». Sbrigate le formalità di rito e preso possesso dell'ingombrante in volto, era raggiante. Il pacco, una scatola di cartone rinforzato, color marroncino chiaro, era enorme, molto più grande di quello che si era immaginato. La simbologia era chiara, fragile e alto, con tanto di disegni del bicchiere e del calice. Le scritte erano riportate sia in inglese che in ideogrammi cinesi. E poi c'era quel Made in China scritto in basso a destra, per non parlare di tutte quelle strane etichette appiccicate, segno eloquente di un lungo viaggio. Le dimensioni erano tali da avere fatto fatica a trasportarlo fino a casa. Ingombrante com'era, era passato a stento dalle porte. Lo portò, non senza una certa emozione, al centro della sala. L'aprirono con la dovuta attenzione e, quasi per incanto, il sogno coltivato da quasi 40 anni era lì, davanti a lui. Non gli sembrava vero. Non gli sembrava suo. Gli sembrava surreale. Era come un bambino davanti al trenino dei suoi sogni. Lo guardava in silenzio, quasi avesse paura a svegliarsi. E poi la moglie lo incalzò. «Dai, tiralo fuori che ve lo vediamo. È pesante». Lo estrasse delicatamente, osservandone ogni dettaglio. Lucidissimo. Forse un po' troppo scuro rispetto ai desideri, ma era bellissimo. «Beh, non dici niente?» Era sempre la moglie che lo incalzava, conoscendolo bene. L'osservava rigirandoselo fra le mani, soppesandolo e radiografandolo attentamente in ogni particolare, con una rapita tensione che nemmeno lui si sarebbe aspettato. Allora? Era talmente emozionato che a stento riuscì a rispondere alla moglie. «È stupendo». Poi riprese quell'aria di stupore e aggiunse che ormai il ghiaccio era rotto. Disse: «Me lo aspettavo più chiaro e mi ero raccomandato. Vabbè, in ogni modo, è fantastico. Non mi sembra vero che finalmente sia qui». Passò qualche secondo e, dopo essersi allontanato di qualche spanna per vederlo meglio in tutta la sua maestosità, aggiunse, guardandolo con ammirazione: «Il mio violoncello». Quasi d'impeto, dimenticandosi che era da poco passato mezzogiorno ed era un giorno feriale, prese il telefono e, dopo aver frugato nell'agendina, compose il numero. «Pronto Paolo, sono Giulio, quello del treno, ti ricordi?» «Ah certo, quello del violoncello, mi ricordo, come stai?» «Bene», taglio corto. «Senti, ho comprato il violoncello, ora me la dai qualche lezione?» Ci fu un silenzio e poi l'altro rispose: «Hai comprato sul serio un violoncello? Tu sei un matto». Paolo era una conoscenza recente, fatta per caso sul treno dei pendolari, una manciata di settimane prima. L'aveva visto con quella inconfondibile, enorme e panciuta custodia e non aveva potuto fare a meno di attaccare bottone. Una volta scoperto che il maestro abitava vicinissimo, si era fatto promettere che se avesse comprato lo strumento gli avrebbe dato lezione. E così era iniziata. maestro Paolo ha soprattutto capito come riuscire a farmi studiare cose che non vorrei studiare. Oggi sono passati quasi 4 anni e per fortuna la situazione è differente. L'aula dove facevano lezione era al primo piano, proprio nel corridoio del vero conservatorio. I corsi serali erano ospitati nelle aule che di giorno vedevano cimentarsi i futuri professori di qualche orchestra di gran nome o i futuri maestri e direttori. Lui arrivava lì dopo aver bevuto un caffè al bar, proprio vicino alla sala grande dei concerti. Studiare alla sua età uno strumento così difficile senza avere alle spalle una preparazione teorica era una vera sfida, un'impresa al pari di quell'Atlantico attraversato in barca a vela qualche anno prima, oppure la scalata di qualche 6.000 in Karakorum quando ancora faceva l'alpinista. La sua maestra Caroline era una donna piccola e magrolina, a dispetto dello strumento dalle dimensioni generose. Aveva dei capelli neri, ricci e disordinati, ma lo sguardo attento e profondo. Caroline era inflessibile, ancorché simpatica e affabile, ma non era come con il suo amico Paolo, con il quale a volte più che suonare si chiacchierava di calcio o di avventure. No, qui si parlava solo di note e di tecnica d'arco. Anche ora, che ormai suonava già da un po', ogni tanto tornava quella sera d'inverno, quando, quasi per caso, uscì così limpido quel fa. Caldo, morbido e stupefacentemente perfetto. Lo ricordava alla perfezione. Che soddisfazione, si fermò a sentirsi per un tempo infinito. E più che ascoltarne il suono, durato poco più di qualche secondo, ne percepiva le vibrazioni nell'aria tiepida del dopocena e nel suo corpo che si era impietrito nella meraviglia di quell'istante magico. Oggi suonicchia nonostante i rimbrotti della sua maestra e quelli ben più velati di gentil correttezza parentale di quella sua cugina con cui a fatica prova a riprovare dei facili duetti di Mozart e di Haydn. Infatti da qualche manciata di mesi si è lanciato in questa nuova avventura. Non pago di quella dello studio normale del violoncello, ha accettato di provare a suonare con lei dei duetti. Le prime volte anche la cugina, pianista, era in difficoltà, visto che anche per lei suonare in due era una novità. Poi però l'esperienza e la bravura hanno preso terreno. E lui invece è rimasto lì, a pensare il battere del metronomo come fosse un martello pneumatico nel cervello. E per lui, che dei due è certamente il meno preparato tecnicamente, è un po' un esame tutte le volte che si trovano. Però, quando riescono a inanellare una manciata di battute ben eseguite, si compiacciono entrambi e ritrovano l'entusiasmo per affrontare ancora quelle indubbie difficoltà. Perfino il marito di lei ogni tanto si complimenta, il che è decisamente stimolante, visto che lui in genere si apparta con tanto di cuffie a vedere un po' di televisione in un'altra stanza. Ma nonostante ciò, ogni tanto capita, ed è una grande vittoria. Beh, ora è lì, che sta affannosamente ripassando i compiti delle vacanze, come fanno i ragazzini delle medie, in previsione dell'imminente inizio di un nuovo anno scolastico, visto che questa sera ricomincerà il suo anno di studio in quelle aule, per lui così magiche, del conservatorio. Non ha il violoncello in mano nella foto il nostro Giulio, è con un ragazzino, direi, o una ragazzina, ancora non si capisce bene, di origine orientale. Non mi azzardo a decifrarne la provenienza, ce lo dirà lui più tardi. Sono su un sentiero di montagna, è estate o quantomeno è primavera, c'è un bel sole che filtra, lui ha un bel pile, uno zaino in spalla e dei begli occhiali a goccia neri. Pronto Giulio? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Dove ti trovi? Sei anche tu dall'altra parte dell'Atlantico come ieri? Ci sono dei giri strani, no, di satelliti qua che ci permettono di arrivare anche a te. Dove ti trovi, Giulio? Ma in questo momento sono fermo in autostrada. Perfetto, ma all'altezza di? Incisa Valdarno, tipo. Vicino a Milano, purtroppo, vicino all'ufficio. Che lavoro fai, Giulio, esattamente? Lavoro per una grande multinazionale. Non lo trovo così. Un lavoro normalissimo di ufficio, un po' fantozziano. Giulio, scusami, mi dici, prima di andare al dunque, mi dici di che origine è il ragazzino nella foto con te? Allora, mio figlio è di origini peruviane. Peruviana, ok, perfetta. Pensa che io pensavo fosse orientale, ero totalmente... Ha qualche lineamento tratto che potrebbe assomigliare, sì. Allora Giulio, veniamo a te, perché diciamo, tu hai 58, giusto adesso? 59 fra una settimana. Vabbè, insomma, c'hai meno di 60 anni. Però sei uno che non si vuole annoiare dicendola male, giusto? Perché allora tu parti raccontandoci di aspetta, le vette da 6.000 metri in Karakorum. Che prima quella è un'avventura che mi è sfuggita dalle dita per un pelo. Perché ti è sfuggita dalle dita? Perché purtroppo la ditta in cui lavoravo è fallita e quindi quella spedizione che era autosovvenzionata è sfuggita proprio qualche mese prima di realizzarsi. Invece senti, l'Atlantico in barcavela quando l'hai fatto? L'Atlantico l'ho fatto nel 97. Ma con una barca tua o ti eri imbarcato con qualcun altro? No, ero in equipaggio, era una regata e... Sì, eravamo 170 barche. Ammazza, quanto ci avete messo? Per attraversare l'Atlantico si fanno queste ammucchiate di barche con queste regate semi-competitive. No, noi siamo arrivati noni su 170, insomma. Quindi. Beh, non ma quanto ci avete messo? Abbastanza seriamente. Quanto ci avete messo per attraversarlo? 19 giorni, 18 ore e i minuti e i secondi non li ricordo. E invece adesso veniamo a questo benedetto violoncello, Giulio, perché il violoncello è, credo, uno degli strumenti più difficili da imparare, perché, correggimi se sbaglio, perché non ha tasti sul manico, adesso dico termini che qualunque musicista, per le quali qualunque musicista vorrebbe insultarmi, però insomma non hai riferimenti, giusto? È molto complicato. Sì, è vero. Perché anche hai scelto il violoncello? Non lo so. È da quando avevo 18 anni che mi sono innamorato della voce del violoncello. E perché hai aspettato? È una voce calda e vellutata, stupenda, trovo, umana. Perché hai aspettato fino a 52 anni per prenderlo? Allora, sinceramente non so perché prima dei 20 anni non ci ho mai provato. Dopo i 20 anni tutti mi avevano detto che era una impresa impossibile, perché okay, o si impara da bambini o non si impara, e quindi mi hanno tutti dissuaso. Due volte ci sono andato vicino e non l'ho fatto, e poi a 54 anni ho pensato che, siccome l'età della pensione si allontanava ulteriormente, era bene cominciare a realizzare qualcuno dei miei sogni, della lunga lista dei miei sogni, e uno era quello. E uno era il violoncello, perfetto. Quanto costa un violoncello che arriva dalla Cina? Allora, il mio cinesino era costato sui 300 euro. Ah, ma pochissimo, tipo un giocattolo. Sì. Ma e suona... Il violoncello che ho adesso costa 10 volte tanto. Ah, ok. E invece, è un violoncello semi-artigianale. E invece un corso serale, i corsi serali che fai al conservatorio? Allora, quei corsi lì costano 300-400 euro all'anno. E quante sere fa a settimana fai? Due? No, facciamo una volta alla settimana. Ok, e quanto ti alleni invece col violoncello? Ma purtroppo studio poco, studio 3-4 ore a settimana. Cioè, tipo la sera quando torni a casa o ti metti nei weekend? Sì, no, la sera quando torno a casa, tutti i giorni. Giulio, mi sembra che devi andare. Sembri mia mamma quando mi risponde a spizzichi e bocconi che deve andare tipo in cucina a preparare la roba, e dico: vabbè, mamma, allora ti saluto a questo punto. Giulio, dove devi andare? Al lavoro? No, devo tornare a casa. Sono uscito apposta presto. Ok, ok. Anzi, comunque devo andare a casa a studiare. Sì, che cosa studi oggi? Haydn? No, adesso sto preparando l'Ave Maria di Schubert e un pezzo di un movimento di una suite di Bach. Bravissimo. Giulio, mandaci una registrazione, mandaci un pezzo. Tra una decina d'anni forse ce la farò. Buona giornata Giulio, grazie mille. Grazie a voi. Ciao. 349-238-6666, sono le 16:28 minuti, siamo sempre in diretta da Pitti, qua fuori intanto passano gente che è mista tra gangster e minatori, c'è di tutto, Ciocia, ci sono dei personaggi che uno direbbe: perché Ciocia ti sei vestito così oggi? perché non avevi altro da metterti. Arrivano invece le descrizioni di come sono vestiti i nostri ascoltatori, tipo jeans, camicione a quadri verdi e gialle, pantofole di un delicatissimo celeste. Un orrore, sono un orrore, Tina. Ciao Matteo, dress code aziendale, abito blu, cravatta a righe, maglione a V per il freddo e primo bottone della camicia sbottonato per star comodi. Diego, a proposito di maglione a V, hanno avuto veramente molto da ridire gli ascoltatori sul mio gilerino, che poi non è un gilerino ma è un cardigan, che esatto, che nella foto indossa anche Paolino Corleoni, quindi non si vede solo perché c'è davanti Margherita Hina. E intanto invece a proposito di persone che cominciano tardi a fare qualcosa, ho cominciato a fare gare di ballo latinoamericano di livello internazionale a 46 anni. Renato, Gianluca, 48 anni, ho iniziato a suonare la batteria. Solo ora ho potuto verificare la mia passione per il ritmo. Ciao, verificare, vabbè, l'hai verificata. Scuola di vela, 44 anni, Silvia della provincia di Lecco, regate invernali a Ravenna. Qui l'orologio di Ciocia dice che abbiamo finito, vero? Mancano 30 secondi, aspetta un attimo. Ho preso la patente a 52 anni, Nuccia, e poi ancora sto imparando a sciare a 40 anni. Culo e ginocchia ringraziano. Andrea, io vi ricordo che per mandare la vostra foto sul profilo Facebook di Voi Siete Qui, cioè Voi Siete Qui Radio 24, siete vestiti come volete, è quello che ci interessa, però c'è un unico vincolo, è che nelle foto bisogna essere serissimi, perché nella moda non c'è veramente niente da ridere. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Hina e a Davide Ciocia, che è qui silenzioso ma ci dà grande tranquillità come ogni giorno. Noi domani ritorniamo a Milano, ma qui le trasmissioni invece da Pitti continuano. Adesso passo la linea a Milano a Oscar Giannino. Ciao a tutti, la sera di oggi era di Giulio, me lo stavo dimenticando, vi siete accorti? No, la sera di oggi era di Giulio e anche lui è un punto rosso su una mappa.